La mia famiglia è un branco, stiamo fianco a fianco. Giù di dietro l'angolo, coprimi le spalle, ma uniti non ci potrà fermare. What's hot, for real, to tell you about a deal. When I came to Milan, it wasn't all that fun in the beginning of time, but I made this town all mine, all mine. From the streets, metro sound, casting tricks to the clubbing beats. Now, I stand in front of you all to demonstrate my present state. This is my maid, one family. We be me and Bola G. Yeah, yeah. We are a family, united we will be. Don't fuck around with us, we will have to kill. We are a family, united we will be. Don't fuck around with us, cause we will have to kill. Together keep it real, together keep it real, together keep it real, together keep it real. First thing's respect, second thing is love, third thing, one word, one word, one. Guarda i fatti, stupefacenti e fatti, business come gli anarcati. È inutile chiamare gli altri, non ci possono fermare, bloccami. Baby, se vuoi l'attenzione, scioccami. Amano i soldi, va bene ogni taglio, li amano in molti, va bene ogni sbaglio. Merce stretta di mano, andiamo, ok, ci siamo, pagamento a mano. Bombe a mano per ogni schiavo, apri gli occhi poi tutto è chiaro. Il motivo per cui discutiamo, vogliamo distruggere il tuo piano. Guarda che ci seguono, va bene, corriamo, i tuoi alibi si spezzano come un ragno. We are a family, united we will be. Don't fuck around with us, cause we will have to kill. We are a family, united we will be. Don't fuck around with us, cause we will have to kill. Together keep it real, together keep it real, together keep it real, together keep it real. First thing's respect, second thing is love.